Dio, messaggero di audacia e di valore. Arriva Tozio, sempre primo tra i giganti del motor. Arriva Tozio, e nel cuore un'indomabile volontà. Arriva Tozio, primo, primo e sempre prima arriverà. Fino al volante lo sguardo duro, lancia i bolidi con far sicuro, la folla corre al suo passare e non si stanca dall'ammirare quel temerario, quel gran campione. Arriva Tozio, messaggero di audacia di valore. Arriva Tozio, sempre primo tra i giganti del motor. Arriva Tozio, e nel cuore un'indomabile volontà.